Salvadanaio. Bentrovati a Salvadanaio, sono le 12:13 minuti. La fine dell'euro porterebbe ad una catastrofe economica per la Germania, l'Europa, il mondo. Lo ha detto il ministro delle finanze tedesco a pochi giorni dall'atteso incontro fra i ministri delle finanze di Eurolandia lunedì prossimo. Incontro che dovrà un po' dare i dettagli su quello che è stato il Consiglio europeo di qualche giorno fa, insomma farci capire se davvero le promesse che sono state fatte per il fondo anti-spread sono reali e quanto sostanziali sono. Dovrà decidere su Cipro, sulle banche spagnole, ma tutto questo avviene a un giorno dal consiglio direttivo della BCE presieduto da Mario Draghi, che ha deciso, rispettando le attese, come sapete, di abbassare il tasso di riferimento principale di Eurolandia del 25%, portandolo al minimo storico di sempre. Draghi non è andato leggero quando ha parlato della debolezza dell'area euro, che ha detto ci sono ancora elevati livelli di incertezza che pesano sul clima di fiducia. Stamattina gli ha fatto un po' eco il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde, dicendo che c'è un allarme per l'economia mondiale. Notizie che arrivano al termine di una settimana segnata dal caso Barclays. Come sapete ci sono state le dimissioni dell'amministratore delegato dell'istituto britannico, che hanno riacceso dubbi, e non le dimissioni ma lo scandalo intorno a queste dimissioni, su quello che il ruolo delle banche. E nonostante il respiro di sollievo e l'entusiasmo dei mercati che hanno seguito il Consiglio, il summit di Bruxelles la scorsa settimana, la situazione economica del vecchio continente e i mercati restano quindi un po' ancora ricchi di incertezze e preoccupazioni. Salvadanaio quindi oggi tocca un po' tutti questi temi, cercando di capire come si può uscire da questa crisi europea. È una giornata conclusiva anche di un'iniziativa di Radio 24, l'estate calda dell'euro. Quindi come andrà a finire l'estate calda dell'Europa? Quali sono i vostri dubbi, le vostre curiosità? Se volete intervenire 800 24 00 24 oppure via sms 349 238 6666 o ancora via Facebook alla pagina Salvadanaio di Facebook. Ne parliamo questa mattina con alcuni ospiti. Ho il piacere di avere qui in studio Giorgio Arfaras, presidente SCM SIM. Buongiorno. Buongiorno. Avremo con noi alcuni colleghi del Sole 24 Ore per focalizzarci un po' su alcuni di questi tre temi che abbiamo tentato di illustrare, e saluto anche Franco Bruni, docente di economia monetaria internazionale e di editorialista della Stampa. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere qui con noi. Sarà quindi una puntata con diversi temi e spunti. Se ne avete anche voi di spunti e di temi, chiamate appunto 800 24 00 24. Adesso, prima di passare al tema principale, diamo uno sguardo a quello che sta accadendo sui listini, come facciamo di consueto. Listini che oggi, appunto, come dicevamo durante il collegamento durante il GR, sono negativi. Milano meno 0,78%, il FTSE MIB, FTSE Tolshare meno 0,79%, Parigi meno 0,5%, Francoforte meno 0,4%, Londra meno 0,14%. Abbiamo sentito anche dal GR, è crollato al minimo storico l'Euribor a tre mesi dopo il taglio dei tassi da parte della BCE. Quali sono i temi di oggi in borsa? Innanzitutto Telecom Italia in rialzo a Piazza Affari all'indomani della presentazione del palinsesto del polo televisivo, un rialzo dell'1% circa. La Popolare dell'Emilia Romagna più 1,54% è la migliore del listino, in una giornata contrastata per i bancari e una giornata in cui Unicredit era stata sospesa per eccesso di ribasso, ora cede il 2,2%. Avvio in calo per Unipol e Fonsai, ora Unipol è sospesa, Fonsai cede il 6% dopo che sono stati comunicati i prezzi degli aumenti di capitale. E per quanto riguarda gli altri temi, Fiat meno 2,81% fra le peggiori, tutto il comparto automobilistico in Europa oggi va male anche in Pregilo, meno 2,26%, e poi Pirelli meno 1,88%, Fiat Jet Industrial meno 1,85%, Monte dei Paschi meno 1,56%, Eni meno 1,16% quest'oggi, invece Enel guadagna lo 0,49%, Telecom Italia intorno alla parità. Euro sul dollaro 1,23,78, mentre lo spread è in rialzo a 468 punti. Questi temi di oggi, in attesa anche di alcuni dati sul mercato del lavoro americano che ci saranno nel primo pomeriggio, e vedremo come orienteranno, se orienteranno, i mercati. Quali sono gli spunti di oggi? Ce lo racconta la redazione in questa scheda. Quella che si chiude è stata sicuramente una settimana calda nel panorama economico del vecchio continente. Si è aperta con le buone notizie in arrivo da Bruxelles, dove nel summit dei capi di Stato e di Governo di Eurolandia si sono raggiunti diversi risultati che hanno dato soddisfazioni in particolare al Presidente del Consiglio italiano, Mario Monti. Via libera al patto per la crescita e l'occupazione, accelerazione sull'unione interbancaria, intesa sui meccanismi anti-spread e anche qualche giornata di reazioni positive sui mercati. È stata però anche la settimana dello scandalo Barclays, che ha portato alle dimissioni di Robert Diamond, l'amministratore delegato della grande banca britannica. L'istituto è stato multato per 451 milioni di sterline per via del tentativo di manipolare il Libor, il tasso interbancario dei prestiti utilizzato dalle banche per scambiarsi denaro. Un caso che fa riflettere e crea preoccupazioni sull'eventualità che anche altre banche possano mettere in atto comportamenti poco trasparenti. E infine è stata anche la settimana in cui il consiglio direttivo della BCE ha deciso, rispettando le attese, di abbassare il tasso di riferimento principale di Eurolandia dello 0,25%, portandolo al minimo storico di sempre. Mario Draghi ha indicato che la crescita economica nell'area euro resta debole, con elevati livelli di incertezza che pesano sul clima di fiducia. Sono ancora tanti, quindi, i dubbi e le preoccupazioni che circolano nel vecchio continente e che alimentano uno scenario di crisi che per il momento è tutt'altro che risolto. Questa è la scheda che è stata redatta dalla nostra redazione, da Marco Lombardo, che ringrazio. Franco Bruni, docente economia politica monetaria internazionale, editorialista della Stampa. C'è molta attesa per la riunione di lunedì, che dovrebbe dare i dettagli degli accordi raggiunti dal Consiglio europeo che si è tenuto il 29 di giugno. Cosa ci si aspetta? Beh, è probabile che ci sarà qualche precisazione in più sul funzionamento del cosiddetto fondo anti-spread, cercando di capire in che misura si potrà esercitare la sua flessibilità, perché questa è stata quella, era stata la promessa dell'ultimo vertice, cioè la capacità di intervenire in modo flessibile anche nei confronti dei paesi che non sono disastrati e sono virtuosi come il nostro. Ieri Draghi, tra l'altro, sembrava dare un'interpretazione, diciamo, più a favore della posizione tedesca che dell'entusiasmo, diciamo, mediterraneo. Ma comunque è una cosa che deve andare avanti gradualmente, anche perché fino a che questo organismo, cioè il Fondo Salva Stati, non è veramente autonomo e indipendente, non si può pretendere granché. È sempre un organismo intergovernativo dove le capacità di veto dei vari paesi sono, cioè non c'è una vera delega di potere, diciamo, a un'organizzazione come la Banca Centrale Europea. Quindi è sempre un progresso limitato, ma è nella direzione giusta. E poi l'altra cosa importantissima, e quella che credo dobbiamo attenderci con maggiore ansia e speranza, è che questa vigilanza europea, diciamo, delle banche prenda corpo davvero, perché quella è la cosa più urgente di cui abbiamo bisogno per fare ripartire il mercato interbancario, il flusso di finanziamenti in Europa, insomma, senza questa concreta speranza di riuscire ad arrivare non più tardi della fine dell'anno a qualche provvedimento concreto di messa in comune delle informazioni sullo stato delle banche e possibilità di prendere provvedimenti al centro sulla vigilanza, senza questo l'Europa non va avanti, si blocca tutta l'economia, è come un corpo in cui si ferma la circolazione del sangue. Di banche parleremo tra poco anche con Maximilian Cellino, che ci ha raggiunto in studio, il collega del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Parleremo delle banche, degli scenari dopo lo scandalo di Barclays con te, e anche delle rate, come possono impattare sui mutui il taglio dei tassi da parte della BCE. Ma tornando al vertice di lunedì, Bruni, la BCE, quindi anche il ruolo della BCE in discussione, ci saranno delle novità da questo punto di vista? Cosa si prevede? Non credo. Ora, la BCE ha un suo mandato, prima o poi occorrerà mettere mano nel suo mandato e quindi nella sua strategia, affiancando all'obiettivo di stabilità dei prezzi, quello di stabilità finanziaria, che per ora è un pochino troppo implicito, bisogna portarlo ad un livello un po' superiore in modo da dare alla banca centrale un'autorizzazione più ampia a intervenire quando serve nel brevissimo periodo per sostenere i mercati. Ma più di così non credo che si possa pretendere. Draghi, credo che in questi ultimi tempi abbia fatto capire che non c'è speranza di avere dalla BCE quello che deve essere invece dato dai fondi governativi, quindi o i politici riescono a prendere le decisioni necessarie per far funzionare i fondi intergovernativi in modo efficace, oppure la BCE, se dovrà intervenire, interverrà in modo precipitoso e forzato in situazioni molto molto difficili. Non può essere un intervento regolare quello della BCE, non è il suo mestiere. Ieri c'è stata la conferenza di Draghi dopo il consiglio direttivo. Abbiamo un taglio della voce di Draghi che farei sentire a questo punto. No, mi dicono dalla regia che non hanno il taglio. Lo sentiremo magari più tardi. Ovviamente Draghi, come lei diceva, ha parlato del ruolo della BCE, della possibilità di un ruolo più forte della BCE, ha parlato anche delle banche, di questo parleremo tra poco con Maximilian Cellino. Questa situazione degli scandali bancari che ha interessato questo istituto inglese in particolare, come può pesare sulla fiducia in generale dell'Europa e di quello che sta accadendo, Franco Bruni? Guardi, non è una novità, lo si sa da tanto tempo, posso dire di avere due tesi di studenti in corso da diverso tempo su questo problema e per di più sull'Euribor, non sull'Aibor, quindi è sporco anche l'Euribor, quindi è una cosa che si sa da tempo, e il fatto che la si sappia e i banchieri non provvedano a eliminare questa cattiva reputazione del meccanismo di fissazione dell'Euribor, è un segno del fatto che il sistema bancario è il vero problema dell'Europa, che va disciplinato in modo adeguato, e che i banchieri non sono in grado di avere nemmeno quel minimo di autodisciplina che gli consentirebbe di fornire al mercato un servizio che è nel loro stesso interesse, dare un tasso di interesse di base su cui calcolare i contratti. Il fatto che i banchieri, che una volta con una stretta di mano erano in grado di scambiarsi cose di cui credevano, informazioni e sicurezza, oggi non sono più, si imbrogliano da soli e la situazione diventa quindi ingovernabile. Quello è il problema principale dell'Europa. Sentiamo allora, per avere uno spunto in più, la voce di Draghi, che adesso mi dicono dalla regia siamo in grado di sentire. Well, the LIBOR, I think there is an inquiry which is unfolding at the very same time we are speaking. Per ciò che riguarda la vicenda sul tasso LIBOR, c'è un'inchiesta in corso, ma devo dire che ha mostrato che un meccanismo considerato equo ed essenziale per il funzionamento dei mercati finanziari non lo era affatto. Penso che si debbano prendere delle misure per migliorare la governance di questo meccanismo, sia a livello di trasmissione dei dati, sia a livello di produzione del tasso di riferimento. È piuttosto chiaro che la governance era debole, se non mancante in entrambi i livelli. Sinceramente, non so cosa avrebbe fatto la BCE, ma spero che l'avrebbe fatto meglio. Frankly, I don't know what the ECB would have done, but I hope it would have done better. Questo era Mario Draghi. Io ringrazio il professor Franco Bruni per essere stato con noi in questa prima parte della trasmissione. Abbiamo in collegamento un ascoltatore che voleva fare una domanda. Darei subito la voce a lui, chiedendole di essere breve. Antonio da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma non ho capito cosa, o meglio, non ho capito un niente come tanti, nel senso che persino gli economisti migliori del mondo non sanno cosa succederà e come ne verremo fuori, se si va fuori dall'euro o se si resta dentro. D'altronde le banche non si fidano, e difatti, è un dato di fatto, l'ha appena detto anche il signore. Mm. E quindi, io volevo capire di più, perché si parla tanto di restare dentro l'euro, ma se si va fuori... Chi è che mi ha detto che succede il patatrack? Ho capito Antonio. Non è lo stesso grazie. Patatrack, grazie a lei. Praticamente lei dice cosa cambia nello stare dentro all'euro se stiamo tutto sommato così male. Noi di questo ne abbiamo parlato in un'iniziativa di Radio 24 che si conclude proprio oggi, l'estate calda dell'euro. Giorgio Arfaras, presidente SCM SIM. Noi abbiamo fatto, lei ha redatto dei testi per questa iniziativa, cercando di capire anche questo, cosa cambia, perché in giro c'era un po' di nostalgia. Sì, quando le cose vanno male, oppure quando non si vede una via di uscita facile, sorge la nostalgia. E la nostalgia della lira è la nostalgia del primo matrimonio rispetto al secondo che va male, quando uno pensa che nel primo matrimonio tutto andava bene, in realtà è solo un gioco di ricordi. Così è la lira. Siccome quando c'era la lira tutti erano più giovani e comunque si mangiava e si viaggiava, sembra che questa sia la soluzione dei problemi dell'oggi, che non è. E proprio ridotta in pillole la storia è questa. Intanto si torna alla lira di quanto si svaluta la moneta. Facendo dei conti sul costo del lavoro per unità di prodotto, che vi salto, viene fuori che ci sarebbe almeno un 25% di svalutazione. A questo punto io sono un cittadino che ha del debito pubblico, che si immagina che se torna la lira fra un anno avrà un 25% in meno di potere d'acquisto. Quindi o mi danno il 25% di interesse sul debito pubblico a un anno, io non lo sottoscrivo. Lo vendo sul secondario e mi compro il debito pubblico di altri. Questo vuol dire che se ci fosse una vera attesa di ritorno della lira, i rendimenti sul debito pubblico schizzerebbero talmente in alto da creare una situazione difficile, perché a quel punto, quando il debito va al rinnovo, il tesoro lo deve pagare lo deve pagare talmente tanto che mette in crisi i conti pubblici. Quindi il ritorno alla lira metterebbe inizialmente in crisi i conti pubblici, e dopo, messo anche che si esca da una situazione del genere, ci si troverebbe ad avere un'economia che forse è più competitiva sul lato delle esportazioni, ma certamente le importazioni le paga il 25% in più. Quindi conseguenze pratiche. Le conseguenze pratiche del ritorno della lira, quindi persone. Capisco l'immaginazione, che bello quando c'era la lira, ma le conseguenze pratiche sono prima una crisi del debito pubblico e poi un'incognita su come andrà l'economia reale. Quindi a me sembra un modo di pensare sbagliato. Se andate a vedere i mercati, questa storia della lira non ci crede nessuno, perché se fosse vero il ritorno della lira, il rendimento sui bot sarebbe il 25%, una roba greca invece del 4%. Non è neanche prevista nel trattati costituzionali. A parte che non è prevista, ma non ci crede nessuno. Sottolineiamo allora i vantaggi anche dell'euro. Beh, intanto i vantaggi pratici proprio per il risparmiatore. Allora, i vantaggi pratici sono che abbiamo un costo del denaro più basso di quello che altrimenti avremmo. Perché con la lira avremmo una moneta debole che tende a svalutarsi e quindi verrebbero richieste dei tassi più alti sul debito pubblico. E questo si trasmetterebbe su tutta la struttura dei tassi, dal credito alle imprese ai mutui. Quindi il denaro costa meno, questo è un vantaggio. Il secondo vantaggio è che non si può fare i furbi sulla struttura produttiva, cioè a dire uno non rincorre i salari e la produttività e ogni tanto svaluta, perché questo non si può fare. Quindi la struttura industriale deve necessariamente riqualificarsi tecnologicamente, perché con una moneta forte e non debole tu non puoi continuare a avere bassa tecnologia che tanto svaluti. Quindi per le famiglie in concreto significa un costo del denaro più basso, per le imprese un vincolo a incrementare il livello tecnologico, cioè una modernizzazione in sostanza, l'euro. E ha avuto degli effetti di cui non ci si rende conto, perché prima dell'arrivo dell'euro il debito pubblico italiano costava esattamente il doppio. Quindi, insomma, macro temi che però hanno conseguenze anche nel nostro portafoglio, nei mutui e in quant'altro. Ieri c'è stato il taglio dei tassi da parte della BCE. Maximilian Cellino, tu hai scritto un pezzo oggi su questo, rata più leggera ma conta anche lo spread. Ci puoi far capire un po' meglio quanto si potrebbe risparmiare per famiglia dopo questo taglio dei tassi della BCE? Ma ci sono i due, sottolineava i due aspetti in questo momento che stanno attorno ai mutui. Chi ce l'ha già, parliamo delle variabili ovviamente, ogni volta che la Banca Centrale Europea abbassa il tasso di interesse, come è avvenuto ieri, adesso i tassi sono proprio ai minimi storici, risparmia qualcosa. Chi non ce l'ha, chi ha un fisso ovviamente non risparmia niente perché è un tasso fisso, chi non ce l'ha continua invece ad avere problemi abbastanza importanti, perché chi avrà provato ad andare in banca si sarà visto chiedere, nonostante i tassi di base, l'Euribor per i variabili e l'IRS per i fissi siano ancora ai minimi storici, si sarà visto chiedere comunque dei tassi abbastanza elevati, perché le banche applicano un ricarico molto elevato, il cosiddetto spread bancario, che è ancora sopra il 3%. Questo è non è perché le banche sono cattive, è perché le banche è un risultato della crisi degli ultimi anni. Le banche fanno fatica a raccogliere il denaro, quando lo raccolgono a un prezzo elevato, ed evidentemente quando lo girano alla clientela quel prezzo elevato rimane. Tornando al discorso dei risparmi, i risparmi sono sono abbastanza limitati per una serie di motivi, perché la maggior parte dei mutui è legata al tasso Euribor, che appunto si adegua a poco ai tassi di interesse, non solo, ma si è già adeguato, perché il costo del denaro della BCE è la 0,75 e ieri l'Euribor a tre mesi per esempio era 0,64, mi sembra lo 0,36 addirittura l'Euribor a un mese. Questo non vuol dire che non ci siano dei risparmi, ci sono dei risparmi che possono essere quantificati nella decina di euro per ogni 100.000 euro presi a prestito. Poi dipende, sono risparmi maggiori se la durata è più lunga del mutuo e minori se la durata è più corta. Quello che è interessante rilevare è che i risparmi sono abbastanza ingenti se si guarda indietro a un anno, perché un anno fa è cambiata totalmente la politica monetaria della BCE. Ricordiamo che l'anno scorso Trichet fece l'ultimo rialzo dei tassi un po' avventato. Dopo a novembre, il primo novembre è arrivato Mario Draghi, non soltanto perché è bravo Mario Draghi, ma perché sono cambiate veramente le situazioni, la crisi si è fatta veramente pesante. Poi dopo ci sono stati tre ribassi dei tassi di interesse. Ecco, si può calcolare che la rata di un mutuo medio ad agosto 2012 sarà più leggera dell'8-12%, tra l'8 e il 12% rispetto a quella di un anno fa. Questo è un ribasso che va considerato. E l'ultima cosa da dire è che la tendenza alla risalita dell'Euribor non si vede ancora all'orizzonte, perché la crisi è profonda, crisi economica, crisi finanziaria, la BCE probabilmente dovrà ancora intervenire, forse sui tassi, forse con altre misure non convenzionali, con le aste a lungo termine, le famose LTRO, che abbassano moltissimo anche il valore degli Euribor, e gli analisti prevedono che di tornare all'1% non prima di 3 anni, non prima del giugno 2015, e oltre il 2%, che è comunque un tasso storicamente ancora basso per gli Euribor, nel 2017, per cui si parla di 5 anni. Do il benvenuto anche ad Alessandro Merli, corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore, che ieri era proprio lì, insomma, al taglio dei tassi, all'intervento di Mario Draghi. Intanto buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi. Allora, questa mossa dovrebbe in qualche maniera far ripartire il credito, questo almeno doveva essere una degli effetti che si sperava ci fossero. Sarà così? Cosa si prevede? Ma devo dire che lo stesso Draghi in conferenza stampa ha ammesso di non attendersi degli effetti travolgenti da questa operazione. Il taglio dei tassi è avvenuto su due fronti: uno è quello sul rifinanziamento che le banche fanno presso la BCE, e l'altro sono il taglio dei tassi sui depositi che le banche compiono presso la BCE stessa, cioè i soldi che lasciano depositati overnight, sulla BCE questo tasso è andato addirittura a zero. In questo modo l'idea sarebbe di disincentivare le banche a lasciare appunto i tassi in deposito alla BCE e utilizzarli per l'interbancario, quindi per fare prestito ad altre banche oppure per fare credito all'economia reale. Draghi ha ammesso che nelle condizioni di mercato attuali difficilmente questo provocherà un forte rimbalzo del credito, ma comunque questi sono gli strumenti che la BCE ha a disposizione, certo, in questo momento. Forse farà un altro taglio di 25 punti base più avanti, per il momento Draghi ha detto che non si parla di altre operazioni di finanziamento a lungo termine, quindi iniezione di liquidità per le banche o di acquisti di titoli di Stato. Comunque diciamo che le armi a disposizione sono varie nelle condizioni attuali. Draghi però ha anche detto che lo stallo del credito dipende anche dal fatto che assolutamente non c'è domanda, cioè nessuno chiede. Non dipende solo dai tassi, insomma. E quindi non dipende solo dai tassi, dipende anche dai timori che le banche hanno di fare prestiti che poi rischiano di non vedere rimborsati. Grazie. Abbiamo un ascoltatore, Giorgio, dalla provincia di Genova, che voleva proprio, mi pare di capire da quello che mi scrivono dalla redazione, voleva parlare proprio dei tassi e delle conseguenze che possono avere per i piccoli risparmiatori. Buongiorno, Giorgio. Sì, buongiorno. Io ho stipulato un mutuo nel gennaio 2008 con tasso variabile, uno spread della banca dello 0,7%, quindi sono stato veramente fortunato. Sono stato contattato 20 giorni fa da questa banca e hanno cercato di convincermi a passare ad un tasso fisso dal 2,22% per 5 anni, e dopo 5 anni si sarebbe tornate alle condizioni precedenti, cioè 0,7 più Euribor a 3 mesi. Volevo sapere un attimino, ma mi è già stato risposto prima dall'intervento del vostro ospite, che comunque gli analisti hanno calcolato che fino al 2017 il tasso non dovrebbe salire oltre il 2%. Quindi penso di aver fatto bene, di aver rifiutato quella proposta della banca. Inoltre io lavoro anche con un'altra banca, sono un'azienda, e parlando col direttore per avere un po' di finanziamento di un tasso ragionevole, lui mi ha risposto: guarda che piuttosto preferiamo darlo allo Stato con i tassi che ci sono adesso che un privato, perché in ogni caso lo Stato ci garantisce molto di più di un imprenditore. Grazie. Insomma, sono tanti i temi, Maximilian, in parte appunto avevi già risposto, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, l'unica cosa tenevo a precisare che queste sono previsioni, anzi sono quotazioni di uno strumento particolare che si chiama Future sull'Euribor, che viene quotato a Londra. Non vorrei entrare molto nello specifico, però io vi ho dato le previsioni che sono previsioni di mercato, potrebbero cambiare, non prendiamole come roccolato. Però è chiaro che la previsione per i prossimi anni non si vedranno tassi altissimi, non si vede come potrebbe succedere vedere tassi Euribor altissimi. Per quanto riguarda l'offerta, la banca non le regala niente, perché 2,22% per un fisso calcolato un IRS a 5 anni è molto basso in questo momento. Sicuramente la banca non le avrebbe regalato niente. Complimenti per il mutuo, perché avere un variabile con lo spread dello 0,7% mi pare abbia detto, insomma, tutti lo vorrebbero. Allora, Anna dalla provincia di Roma, benvenuta. Credo che lei riesca a introdurci un argomento che avevamo lanciato all'inizio e l'abbiamo un po' perso per strada. Barclays, pronto? Sì, sono qui. Anna, dica. Appunto, io il 22 dello scorso mese ho sottoscritto dei fondi comuni alla Barclays, all'agenzia di Ostia. È una somma abbastanza alta, almeno per me e tutta la mia vita. Mi hanno convinto di fare questi fondi di più di 100.000 euro, però adesso io ho un po' paura. Cosa mi consigliate? Grazie Anna. Grazie a lei. Adesso cerchiamo di risponderle. Intanto, per introdurre l'argomento, come sapete, probabilmente sapete, c'è questo scandalo intorno a Barclays, questo istituto di credito degli del Regno Unito. L'accusa è quella di aver tentato di manipolare il tasso interbancario dei prestiti, LIBOR, l'indice di riferimento per calcolare il costo di prodotti finanziari. È così, Maximilian? E rischia qualcosa la nostra ascoltatrice? No, bisogna fare un pochino di precisazione su questo, perché è ovvio che uno sente parlare, sente il nome Barclays e si preoccupa giustamente, magari si preoccupano anche quelli che hanno un conto corrente alla Barclays qui in Italia, o un mutuo alla Barclays, e non sono assolutamente pochi. Ma in realtà bisogna fare un po' di precisazioni e anche togliere un pochino di terrorismo, insomma, perché la signora parlava di fondi, e il fondo è uno strumento particolare che non è riguardato assolutamente dalla vicenda di cui si parla in questi giorni. Barclays è accusata di aver fatto delle frodi sui tassi. Se la banca rimane tranquillamente in piedi, come è molto probabile, non ci sono assolutamente problemi. In più, voglio dire che lo strumento fondo è particolare: anche in caso di fallimento di una banca, lo strumento fondo è protetto, perché è un patrimonio comunque che rimane in mano all'investitore. Peraltro mi auguro che sia ben diversificato, perché la cifra è abbastanza importante, 100.000 euro, in questi casi sarebbe bene diversificare. Non dico tanto anche, sì, sicuramente come tipo di investimento, mi auguro che non sia un unico fondo, a volte forse anche come gestore del fondo, questa è sempre una buona norma. Però dico a tutti quelli che hanno conti correnti o mutui con Barclays e fondi, la vicenda non riguarda assolutamente questo, insomma. Allora spieghiamo un po' cosa riguarda, perché il tentativo era quello di manipolare non solo il LIBOR ma anche l'Euribor. Che conseguenze ci possono essere per i risparmiatori italiani, se ce ne possono essere? Allora, qui è difficile quantificare, perché si parla di intanto bisogna dire che cosa sono questi tassi. Sono tassi, noi conosciamo bene l'Euribor, ma il LIBOR è il corrispettivo dell'Euribor che viene calcolato a Londra. Sono tassi di interesse del mercato interbancario, cioè che dovrebbero fotografare il prezzo a cui il denaro passa tra una banca e l'altra, a differenti scadenze. Non per niente noi parliamo di Euribor a 1 o 3 mesi. Ora, qual è il problema? Che questo tasso viene calcolato in questa maniera: alla mattina, ogni mattina, la British Banking Association e invece l'Euribor invece viene calcolato in Europa, fa una telefonata ad alcune delle principali banche e chiede: voi a che prezzo l'avete scambiato il denaro? E le banche rispondono, e poi si fa una media togliendo i valori più alti e i valori più bassi. Per l'Euribor si vengono interpellate 43 banche, per il LIBOR dipende dai vari tipi di LIBOR, ma non più di 16. Per questo molti hanno detto che è più facile manipolare l'IBOR, perché alcune banche si possono mettere d'accordo, devono farlo bene, perché se no, perché ripeto, i valori massimi e minimi vengono scartati, si possono mettere d'accordo per manipolarlo, per farlo andare qualche centesimo sopra e qualche centesimo sotto. Attenzione, sto parlando di centesimi. Questi centesimi possono essere importanti, perché magari vanno a smuovere miliardi di io mi sbaglio non tanto migliaia di miliardi di dollari, più o meno è l'ammontare di strumenti che viene legata all'IBOR e all'Euribor. Quando si parla di un centesimo, si parla di moltissimo, si parla di un'enormità. Un centesimo per un mutuo, perché adesso torno al discorso degli italiani, un centesimo in su o in giù per un mutuo che peraltro magari calcola la rata su uno spazio temporale magari di un mese, ecco, mi sentirei dire che è quasi del tutto ininfluente. Altro problema è il discorso generale. Sappiamo tutti benissimo, in precedenza lo ricordava mi sembra anche il professor Bruni, che questo mercato dal 2008 praticamente non esiste più, perché gli scambi sull'interbancario oltre la settimana non vanno più avanti. Viene da chiedersi su che base le banche dicono quel giorno di aver osservato degli scambi su un Euribor a 3 mesi e su un LIBOR sarebbero a 3 mesi. E chiudo dicendo un'altra cosa, che nei momenti di maggior tensione, tutti ricorderanno probabilmente che avevamo avuto a tasso variabile l'Euribor a fine 2008 che saliva moltissimo, tutti si stavano lamentando perché saliva molto. Ecco, se c'è stata una forzatura, c'è stata una forzatura da parte delle banche che dichiaravano di cifre semmai inferiori, perché era anche un danno reputazionale in quel momento, perché una banca che avesse detto, avesse dichiarato delle cifre molto elevate, significava che magari era anche in difficoltà, e in quel momento far sapere al mercato di essere in difficoltà poteva essere molto complicato. Certo. Per cui se c'è stata sistematica manipolazione dell'Euribor a un certo punto nel momento più difficile, probabilmente è stata ribasso, e quindi in questo caso a vantaggio dei mutuatari e a svantaggio di chi ha delle obbligazioni, ricordiamo, perché ci sono anche obbligazioni a tasso variabile legate comunque all'Euribor. Giorgio Arfaras, c'è attesa appunto per questo vertice venerdì. Volevo chiudere cercando di far capire agli ascoltatori quale può essere l'impatto per le famiglie europee, il loro risparmio di questa eurocrisi. Ma allora abbiamo un minuto. Le famiglie e mezzo. Hanno immobili, azioni e obbligazioni. Diciamo in ordine di importanza hanno più immobili, più obbligazioni e poi arrivano le azioni. La caduta dei prezzi delle abitazioni in Europa, se togliamo l'Irlanda e poche altre cose, è stata veramente modesta, imparagonabile a quella degli Stati Uniti. E di conseguenza le famiglie non hanno perso sul fronte del loro investimento immobiliare. Le obbligazioni sono tutte state rimborsate alla scadenza, per cui se uno non vuole fare il trader non si capisce di che cosa si possa essere intimorito, e ha perso sulle azioni, che sono però una classe di investimento rischiosa. Quindi in realtà è più percepita una crisi che è effettiva. Grazie, scusi se ho cercato di stringere perché siamo proprio in chiusura. Ringrazio tutti i miei ospiti, Roberto Scaltritti in regia, Marco Lombardo in redazione, Salvadanaio torna lunedì.